Comunque sì, ho fatto tre partite in una settimana, mi sembro direi a posto per essere convocato. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Cambio corto, limite dell'area, contropiede, catenaccio, lancio per il cross, doppio passo, rimane poeti, finta e tiro, rosa terra per un pelo e gol. Stop al volo, zona Cesarini, sganciamento e spinta dei terzini, tiro nel sette magico pallone, l'urlo del campione. Squadra corte pressing, incornata scivolata, fallo tattico, punizione contro la barriera, disimpegno per il 10 che è scoppiato un po'. Viva il parroco, campo pesante, pallonetto e dribbling ubriacante, quattro volte azzurro in cima al mondo, il pallone è tondo. La palla è rotonda, si gioca di prima e di sponda, rimbalza, si sacca, ti sembra una scia sull'onda. La palla è rotonda, un tocco di tacco che incendia, di collo, di piatto, di esterno, di mezza punta. Allora, ieri mentre eravamo in diretta da Vinitaly, Marino Bartoletti, che è autore occulto di questo programma, mentre quello palese Giorgio De Luca, quello ufficiale Giorgio De Luca, Marco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione, suggeriva oggi una puntata monotematica su Mina, la tigre di Cremona, che cui facciamo gli auguri, che ne compie 75 anni. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, ciao, beh, mi associo insomma. Anch'io mi associerei volentieri, anche perché questa musica, questa canzone rischia di essere l'unico momento distensivo di una puntata nella quale, indovina di che cosa, molti ascoltatori vorranno parlare. Calciopoli! Ma dai, la veramente! Vabbè, se vogliono, 800-24. Come è andato il risveglio? Ma andato il risveglio alla vista lì, tutto bene? Tutto bene? Tutto a posto. Tu? Tu hai il fisico? Beh, io so, diciamo che ringrazio i 64 produttori che mi hanno offerto da bere. Sì, 64, hai contatti? Sì, no, 64. Caro, tutti uno per uno, facciamo nomi e cognomi. Però, no, li salutiamo tutti, sarà bellissimo, veramente. La cultura del vino è una delle cose più belle che l'Italia riesca a offrire. Sono tante le cose belle, il vino fa parte di tutto questo, quindi vabbè, dai, calciamo. È anche una delle aziende che funzionano davvero in Italia, molto meglio rispetto a quella calcistica. Ma il calcio guarda che si difende. Sì, no, per quello certamente. È in crisi, ha qualche problemino. Insomma, nel calcio che siamo i quinti, sesti al mondo, diciamo, insomma, alla fine siamo in linea con quella che è la nostra dimensione di paese, anzi, sì. Non so se nella siderurgia siamo al quinto o sesto posto, quindi insomma, diciamo, anche il calcio è una delle grandi industrie del paese, con tutta una serie di serie di scandali e di tristezze, però insomma non buttiamoci troppo giù, dai. No, finché regge andiamo avanti. Ti faccio sentire tre cosine. La prima è Marotta, che in questi giorni abbastanza caldi per motivi ben noti, oggi lunga intervista sul Corriere della Sera, peraltro, per il direttore generale Bianconero, ha detto una cosina interessante. Questa. No, non immaginavo che tra la Juventus e l'Inter si fossero verificati 30 punti di distacco, un fatto clamoroso, storico, e ha tolto di mezzo, direi, tra l'Inter e il Milan, due società di altissimo rango, di altissimo palmarès. Mio caro Pierino, vai con la benzina, eh? Gonfia il petto, giustamente, Marotta, ci sono i grandi meriti della Juve e i grandi meriti dell'Inter e del Milan. Però sì, questa è proprio gratuita, questa dichiarazione in questi giorni. Volevo farvi notare che più 14 sulla Roma, chi non l'avesse notato, però sul Milan non li conto, ma sull'Inter sono 3. Ti dico pure che insomma lui fa il suo lavoro, è giustamente fiero e orgoglioso di quello che ha fatto, quindi insomma è una, così, nello specifico un po' una sottolineatura non necessaria, perché tanto era evidente, però insomma diciamo che ha aggiunto appunto un po' di sana benzina. Sì, sì. Giocherà la nazionale, cioè Dario dal Camion, che è un ascoltatore affezionato via SMS, come ben sai, che scrive: in questa partita vedremo finalmente Verratti con la Bulgaria sabato sera, io ne sono felice. Beh, se non lo vediamo adesso, non lo vediamo più, io credo. Ha parlato uno dei nuovi della nazionale, che gioca proprio in quel ruolo molto delicato, quello del playmaker, Valdifiori. Ma penso che nel ruolo faccio io il numero uno al mondo da 10-12 anni, anche 15, penso che Andrea Pirlo, lui è proprio il numero uno, quindi anche quando guardavo le sue partite, quando le guardo tuttora, cerchi sempre di provare a prendere un qualcosa di suo e di riportarlo in campo. Poi è ovvio che lui è il numero uno e io cerco di fare un qualcosa che fa anche lui, e nella mia Empoli a volte ci riesce anche qualche giocata, appunto, quindi benvengano queste cose. Anche qua ho l'opportunità, appunto, di allenarmi con grandi giocatori, con grandi campioni, che ci sarà solo da imparare. Senti, se Pirlo è il numero uno, questo è indiscutibile, Verratti che numero è? Almeno per il calcio italiano. Speriamo che diventi il numero uno, mi sembra che abbia la sfrontatezza tecnica, la forza, la qualità. Veramente la personalità, io dico spessissimo personalità, qualche volta anche a proposito, ma Verratti ce l'ha questa cosa, delle volte addirittura rischia di diventare un limite, nel senso che uno che si prende dei rischi, no, proprio perché è molto sicuro delle sue qualità tecniche. In prospettiva mi sembra che ci siamo, che siamo all'altissimo livello, insomma. Io lo immagino come successore naturale di dirlo, poi deve diventare più decisivo. Ma sai, molti skill, molte qualità dei giocatori vengono fuori poi con gli anni, col tempo. Pirlo sì. non è stato così straordinario in tutta la sua carriera, ha avuto varie fasi. Chiaro, ha avuto la grande trasformazione. Un po' come il vino, per rimanere in tema, è migliorato quasi invecchiando, maturando, quindi insomma, poi lui tra l'altro è anche un produttore. Sì. E quindi il paragone ci sta ancora di più. Ma c'era non c'era in Italia il vino di Pirlo? Ci hanno dimenticato di controllare. Non lo so. Qualcuno ci aggiorni su questa cosa. Prima del traffico faccio sentire un'altra voce, non c'entra con il calcio, ma con speriamo il futuro sport italiano. Malagò in Parlamento, numero uno del CONI, a presentare la candidatura di Roma. Poi il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24. Ma lei che cosa andrà a dire in audizione oggi? Quelli che possono essere i vantaggi della candidatura olimpica, le opportunità e soprattutto lo stato dell'arte di quello che oggi, diciamo, il percorso della candidatura rispetto anche agli altri competitor. Tutti convocati. Diciamo che abbiamo scherzato per 9 anni e questa è una cosa che è spiacevole se vogliamo, perché alla fine in pratica si è risolto in nulla questo processo e sono state fatte tante spese e tante persone sono state rovinate, questo è il punto. Processo che è stato viziato sin dall'inizio, non mi aspettavo sinceramente che in Cassazione si potesse reggere questa tesi accusatoria, cioè non ho capito, voglio aspettare le motivazioni per curiosità, perché oggi diciamo che in pratica sono rimasto l'unico arbitro coinvolto in questa associazione per due partite, Fiorentina-Bologna e Lecce-Parma, dove non riesco a capire che cosa c'è. Di questo argomento, come ben sapete, se ne occupa sempre in prima persona il presidente Agnelli. Posso dire però, come dirigente, che siamo in attesa di quelle che sono le motivazioni vere, perché in questo momento abbiamo solo delle agenzie di stampa, delle notizie un po' frammentarie. Di sicuro quello che noi abbiamo rimarcato in questi anni è la disparità di trattamento subita e soprattutto direi una maggiore considerazione di quella che è stata una relazione, secondo me, importante dei fatti, che è quella del procuratore Palazzi. E dunque l'argomento è questo. Pierluigi Pardo sempre collegato con noi, no Pier? Sei? Sì, sono sotto alla radio, adesso trovo un parcheggio, salgo anche. Ma veramente? Eh. Carrabba. Sorprendente. Però tanto non troverò il parcheggio. Se non trovi il parcheggio, qualcosa facciamo, lanciamo un pubblico appello, per favore, qui in via Monterosa. Adesso parcheggio, vado in Gattino e parcheggio. Saluto Guido Vaciago, Tutto Sport. Ciao Guido. Buongiorno a tutti. Oggi mi ho già detto un'altra cosa, la mia battaglia va avanti, mi rivolgerò alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per cancellare anche la radiazione sportiva e tornare nel mondo del calcio. È una roba vecchiotta comunque questa ricorsa, L'aveva fatto subito dopo la radiazione. Si vede che adesso se anche lì ci mettono un po' di tempo? Ma sì, anche perché poi voglio vedere che tipo di urgenza assegnano alla cosa. Però è un ricorso tutto sommato ben strutturato quello, perché la radiazione in qualche modo impedisce a Moggi di esercitare il suo lavoro e non può essere una federazione a poter impedire un diritto che è quello del lavoro. L'ho riassunta in maniera che qualche giurista inorridirà, ma più o meno per farvi spiegare il succo della questione. Sì, c'è anche questa, è uno dei tanti rivoli, perché poi se pensiamo che c'è un processo per farsi testimonianza, uno dei testimoni chiave come De Cillis che dovrà rispondere di questa accusa in un tribunale di Napoli, se pensiamo che c'è il ricorso al TAR, se pensiamo all'articolo 39 che ormai è nell'aria, insomma, altro che finita, è appena iniziata Calciopoli. Sì, ma Calciopoli continuerà nei secoli dei secoli, quantomeno dal punto di vista della battaglia tra Guelfi e Ghibellini, che non finirà, io credo, mai. A proposito di sentenze, sembra di stare un giorno in prettura, oggi ne ho letta una clamorosa, non riguarda il calcio italiano ma potrebbe essere epocale, anche se qualche dubbio ce l'ho, perché c'è Heinz Müller, 36 anni, ex portiere del Mainz. Lo scorso giugno gli è scaduto il contratto, ha deciso di non rinnovarglielo, lui lo voleva sto contratto, si è rivolto al giudice del lavoro, il quale ha detto che gli sportivi vanno considerati come tutti gli altri lavoratori e quindi hanno diritto, dopo 2 anni di lavoro, a un contratto a tempo indeterminato. Ci manca solo questa. Ci manca. Ma è interessante questa cosa. Non me la segno, perché non si sa mai, no? Come vuoi che vada? Cioè, adesso ovviamente il Mainz ha fatto presente, scusate, il calcio non è paragonabile agli altri lavori, gli sportivi non sono in grado di offrire la stessa prestazione lavorativa. Io firmo per due anni o per 3 anni e poi a quel punto divento dipendente secula seculorum. Ribadisco, diventa interessante per tutti quelli che hanno un contratto di collaborazione, a quel punto possono andare a chiedere l'immediata estensione, mi sembra una follia. Sì. Comunque questo in qualche modo potrebbe servire alla mia vecchia teoria che Nedved, tutto sommato, con 2 allenamenti può ancora servire alla causa della Juve, quindi potrebbe far valere questa cosa. Lui aveva certo, pensione ad anni 65, no? Giusto? Esatto. Allora, andiamo subito con gli ascoltatori che hanno voglia di parlare. 800 24 00 24, il numero verde. Ermanno, Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Che cosa ci racconta? Io volevo intervenire a proposito di Marotta e dell'affermazione che lei ha fatto sentire ascoltare sul 30 punti sull'Inter. Sulla differenza dei 30 punti. Volevo dire, sì, con tutto il fenomeno che è la Juventus, con 30 punti di differenza e con i 3 anni hanno vinto 3 scudetti e 2 supercoppe, punto e basta. Cioè non è che sono andati avanti in Champions League fino ai quarti perché avevano trovato il Celtic, ma poi dopo altre cose non hanno portato a casa altro. Quindi non mi sembra sta grande fenomeno di squadra e di società che negli ultimi anni ha stravolto il calcio italiano, no, è una squadra che gioca bene in un campionato mediocre, tutti, e quindi di conseguenza, quindi avendo vinto poco, è una mediocre anche la Juventus, e lo dimostra poi fuori dai confini italiani. Mi sembra un po' riduttivo. No, mi sembra sbagliato, nel senso che a parte che se vale questo principio, allora quelli che stanno a meno 30 che devono fare? Sì, infatti. Decidano, ecco, e come prima cosa. Poi è vero che fino a questo momento la Juve, il salto di qualità in Europa non è riuscito, ma innanzitutto aspettiamo quest'anno, dove nei quarti di finale non c'è il Bayern, ma c'è il Monaco, c'è un altro Monaco, però quello non di Baviera. Sì. E sappiamo che, insomma, va riconosciuto, la Juve uscì a testa media, mi faccio questa espressione, col Bayern Monaco, completamente battuta dal Bayern senza discussioni, però poi dopo che abbiamo visto il Bayern umiliare in semifinale in Barcellona, forse un minimo di tara la dobbiamo fare, no? Quindi quell'eliminazione lì non fu poi così clamorosa. Il vero fallimento è stato l'anno scorso. Sì, certo. L'anno scorso, io mi ricordo benissimo il collegamento che abbiamo fatto il giorno dopo Istanbul, quello è stato direi il fallimento principale della gestione Conte, certo. Il fallimento numero uno. Sì, qui aggiungerei anche con Galatasaray e Copenaghen, veramente qualcosa di molto negativo. Qui aggiungerei anche l'eliminazione da un'Europa League che non è stata fortissimamente voluta come è stato voluto, il record in campionato. Tra l'altro, Guido Vacciago, vi faccio sentire a te e a Pardo una cosa che ha detto Benitez ieri in un'intervista a una radio spagnola, perché mi sembra si stia allargando, non so se per convinzione o per gufismo, neologismo che ho coniato adesso, perdonatemelo, si sta allargando il partito di quelli che vedono invece una Juve competitiva fino agli estremi confini dell'impero della Champions League. Potencial sí, porque la plantilla es muy buena. Aquí en Italia está, desde el punto de vista de plantilla, por encima de los demás. Eso demuestra el campeonato en los últimos cuatro años. Ahora con Allegri el equipo juega más suelto, está jugando bien, están un poco liberados y con la calidad que tienen han progresado en Europa, lo han hecho mejor que en los últimos años y en la Liga lo siguen haciendo igual de bien. Entonces, potencial, capacidad, estructura, organización tienen para competir. Ahora la Champions o a doble partido nunca se sabe, no, puede ocurrir cualquier cosa, pero que potencial tiene seguro. Ah, Morale, Benitez ha detto questa Juventus può essere competitiva fino in fondo per la vittoria in Champions League, soprattutto ora che c'è Allegri, giocano più leggeri, più liberi. Guido. Sì, però la plantiglia, per dire che sarebbe la rosa, la plantiglia del Real Madrid e la plantiglia del Bayern Monaco mi sembrano ancora un po' meglio, al di là della scioltezza del gioco. Dopodiché poi tutto è possibile, come l'anno scorso l'Atletico Madrid è arrivato fino in finale, anche la Juve potrebbe farcela. Non vedo delle grandi differenze tra l'Atletico Madrid dell'anno scorso e la Juventus di quest'anno. C'è un grande giocatore, quello che era Diego Costa per l'Atletico è tutto sommato Tevez per la Juve. Insomma, ci sono anche delle analogie, se volete, e quindi in finale ci può arrivare, poi in finale può succedere di tutto, però bisogna anche vedere come vanno i sorteggi. Sì, certo. E bisogna anche battere il Monaco, perché porca miseria, io vedo un'euforia nell'ambiente, grande ottimismo, è vero, e dell'ottimismo, poi il Monaco lo devi battere. Questi comunque sono andati a vincere ad Ivory, io continuo a chiamare Ivory, all'Emirates, cioè sono andati a vincere comunque a Londra. È vero che l'Arsenal quest'anno ogni tanto ha dei momenti di follia totale, e tant'è vero che al ritorno momenti si fanno fregare in casa, però il Monaco è arrivato fin lì, non è una squadra scarsa, qualche giocatore ce l'ha e quindi bisogna passarlo il turno. Però se si supera il Monaco e magari la l'urna è benevola anche nelle semifinali, Allegri fa del gufismo di tutti gli altri, riesce a beccare una squadra abbordabile anche in semifinale, poi in finale si sa, la Juve ne ha perse tante di finali arrivando da favorita, magari vince quella in cui arriva da sfavorita. Grazie Guido, alla prossima. Ciao Guido, mi sembra che Pardo stesse annuendo, non lo posso vedere, perché sì. Non è ancora arrivato qui. Io però no, lo immagino mentre annuisce. La metto giù, sto aspettando con le quattro frecce, la metto giù che non c'è la posto, e salirò come cantava Silvestro. Salirò. No, io annuisco pienamente, io penso che la Juve sia una squadra buona, non a livello ovviamente del Real Madrid, del Bayern e del Barcellona, ma penso che siamo arrivati a un punto della competizione in cui gli equilibri sono ancora più sottili, perché si gioca nella logica dei 180 minuti, non si gioca nella logica delle 38 partite, per cui complice anche un sorteggio certamente una squadra che non va sottovalutata, ma che è alla portata della Juve, perché insomma se lo è stata pienamente il Borussia Dortmund, con questa autorità lo è pure il Monaco, senza girarci attorno. Sì. E quindi io penso che la Juve possa, se fa il suo dovere, arrivare in semifinale, e a quel punto lì vediamo. Non è detto che l'Atletico Madrid esca contro il Real Madrid, certo. Per chiari non, per fare il solito gioco delle stelline, che non sono le tre stelle della Juventus, di queste se volete parlate voi. Per fare il gioco delle stelline, se ne diamo 5, cioè il massimo, a Bayern, Real e Barcellona, Juventus ne vale 4? È questo che intendi? Ma io direi proprio di sì, insomma. Allegri l'altro giorno con un po' di di sfrontatezza ha detto che è andata bene alle squadre che hanno evitato la Juve, però cioè, non è così. Il Dortmund, ragazzi, non è un dettaglio, eh. Poi c'è la teoria di Liguori e di molti che ha un suo fondamento, cioè il fatto che il Dortmund è decimo in Germania, non è la squadra sicuramente di due anni fa, non è la squadra di due anni fa, però è una squadra che comunque ha vinto stagione con l'Arsenal, è una squadra capace di grandissime prestazioni e contro la Juve è stata umiliata. Il 3-0 di Dortmund è una pagina importante della storia del calcio italiano recente. Non è il Milan che domina il Bernabeu, ma è di sacchi, ma è comunque una pagina importante della storia recente del calcio italiano. 2-3 anni fa sembrava inimmaginabile. Certo. Quindi, la squadra italiana è andata a vincere 3-0 dominando in casa di una tedesca, mi sembrava abbastanza impossibile. Sì. L'Inter non ha dominato in casa del Bosco, adesso non voglio fare il manotta della situazione, però voglio dirti, non è così scontato, no? No, ma è chiaro, è stata un'impresa da circoletto rosso. Adesso ci fermiamo per la borsa, poi t'aspetto se riesci a salire. Si ricomincia. Tutti convocati. Parcheggio trovato per Pierluigi Pardo che mi ha raggiunto. Tutto bene, devo soltanto alzare l'audio. Il volume della cuffia, che è un'altra impresa facile, abbastanza complicata. Mirko da Latina, buongiorno. Ciao, buongiorno Carlo, ciao Pierluigi. Ciao. Senti, io volevo intervenire riguardo Calciopoli sulla Juventus. Io sono juventino, però non si può che ogni volta gli juventini devono, come dire, proteggere Moggi e la Juve di quel tempo. La Juve di quel tempo ha sbagliato, ha fatto delle grandissime cappellate, ha cercato anche di proteggere Moggi, e questa cosa non si può sentire, l'ha pagata, anzi, se era un altro paese invece della Serie B, doveva partire magari dalla C o da un'altra, proprio dalla primavera, perché hai truffato. Questa cosa nel calcio non è concepibile. No, io non, perché sono juventino, non mi sento di proteggere Moggi o dire che l'hanno fatto anche. Io la penso così. La Juventus che in questa vicenda è rimasta di fuori, anzi a parte lesa, si cerca di riavere, cioè, in ballo questa storia dell'azione nei confronti della Federcalcio, con una Juventus che, non dimentichiamo, mai gioca all'opposizione rispetto al potere federale e della Lega. Sono in ballo tanti soldi, vediamo le motivazioni della sentenza. Juventus vorrebbe soldi e scudetto ripreso. Sì, da quello che ho letto e da quello che avevo anche in qualche modo colto, credo che il tipo di verdetto di ieri, cioè il fatto che non ci sia stata l'assoluzione, ma la prescrizione, da un lato appunto evita conseguenze personali pesanti a Moggi, però non credo che faciliti questo tipo di soluzione, cioè l'idea del risarcimento danni dei 440 milioni che la Juve chiede. Però insomma, questo è da quello che stiamo leggendo. Mi sembra anche che durante il periodo di Calciopoli, cioè quando venne fuori lo scandalo, la Juve ebbe un atteggiamento molto collaborativo nei confronti della giustizia sportiva. Certo. Cioè, io non fece mai quel un discorso, grande muro contro muro, no? Quasi accettando mai il discorso di Boniperti, te lo ricordi? Sì. Detto, non fosse stato per l'avvocato, la Juventus avrebbe rischiato conseguenze ben peggiori. Quindi io credo che alla fine, insomma, io credo che su quella vicenda lì alla fine si fosse trovato un equilibrio. Posso capire, e francamente la cosa, io non l'ho detto pubblicamente, non l'ho mai capita del tutto, un certo fastidio per quello scudetto vinto dall'Inter da terza in classifica. Al di là del fatto che l'Inter invece, dal suo punto di vista, quello scudetto lì invece lo rivendica come una medaglia, no? Come la dimostrazione del fatto che da una parte c'era l'onestà e dall'altra no. A me, dal punto di vista, già non me ne frega niente, ma poi figurati su uno scudetto che non puoi in pratica neanche festeggiare, no? Che appartiene soltanto agli almanacchi. Io quella cosa non l'ho mai capita del tutto, e forse è il peccato originale quello. Beh, non è un peccato originale, è quello che è successo, però il peccato originale forse del su quella fatto cosa che lì ce li siamo trascinati fino sì, ad oggi, perché poi alla fine se parli con gli juventini sono arrabbiati soprattutto per quella roba lì, se parli con gli interisti sono orgogliosi soprattutto, certo, di quella roba lì, e quindi non se ne esce vivi. La verità è che la Juve ha pagato, non so dirti se tanto o se poco, però ha pagato, ha attraversato un suo travaglio. e poi è tornata qualche anno dopo a vincere. Insomma, mi sembra che la vita sia andata avanti in maniera, negli ultimi 9 anni qualcosa in maniera evidente e precisa, e rimane da italiani, da cittadini, l'amarezza per il fatto che non si sia in 9 anni riuscito ad arrivare a un verdetto di colpevolezza o di innocenza, ma sì, che non si sia riuscito ad arrivare a un verdetto, perché appunto quanti soldi sono stati buttati, quanto tempo si è perso, in fondo anche quanta ansia si è creata sulla vita delle persone, se sono colpevoli, per carità, ma se sono se invece in realtà erano innocenti o comunque non sarebbero stati colpevoli, hanno attraversato 9 anni della loro vita con questo tipo di accuse. Certo. Insomma, credo che sia da questo punto di vista una sconfitta per tutti. Sì, rimane il fatto che la prescrizione non significa assoluzione, che alcune cose, aspettando le motivazioni, rimangono comunque confermate. Perché fate passare la notizia che i gobbi sono puliti? E qui ci scrive un 339. No, noi sono 2 giorni che riportiamo quello che è stato. Quello che è stato è un verdetto che parla di prescrizione, e dunque non ci sono stati tempi tecnici per la giustizia per riuscire ad arrivare a una punizione e a un verdetto di colpevolezza o di innocenza. Quindi, certo, nessuno ha detto che poi non è che sono i gobbi, che eventualmente Moggi e quel tipo di dirigenti fossero puliti. Non l'ha detto nessuno, chiaro. 339-68. No, anzi, la giustizia poteva, quello sì sarebbe stato rivoluzionario, ovviamente entro certi limiti, dire innocenti e quindi nessuno paga. De Santis, che ha rinunciato, esatto, alla prescrizione, invece è stato condannato nell'ambito di questa vicenda. Siamo stati in Spagna prima di andare a Pisa da Graziano. Filippo Maria Ricci, ciao! Buon pomeriggio! Hola, come va? Molto bene, molto bene. Signor. Un po' di tranquillità dopo. Tranquillità che, Guido che confina con la noia, eh? No. Beh, dai su. E poi tanto è solo un attimo di pausa, perché poi avremo qui questi derby di Champions assolutamente devastanti. Senti, ma contestazione alla Real, le macchine prese a calci, insulti, mi hanno fatto sentire anche l'altro giorno. Erano, erano 3 ubriaconi. Cioè, vuol dire, erano 3 ubriaconi. Macchine prese a calci. Io visto, lo so, in Italia ci si emoziona molto, però insomma, vedi, erano. Beh, il nervo è coperto, come sai. Che sono andati a Val de Bebas. Ma a me sai cosa fa ridere questa storia? Che noi giornalisti, quando io vado a Val de Bebas, passo 3 controlli. Sì. Prima di arrivare in sala stampa, devo veramente sudare sangue, capito? Devo. C'è il checkpoint Charlie. Beh, tu lì hai fatto un numero di una classe. Vogliamo ricordare col mio amico Antonio, eh? Vabbè. No, dai. Però l'ho aspettato fuori con la maglia. Era il periodo in cui non parlava con nessuno, un periodo che è durato, diciamo, tutta la vita più o meno, però sì. Stavo aspettando, lui si allenava da solo, poveretto, l'avevano messo fuori squadra. Allora io vado a Val de Bebas nella canicola più assoluta, rischiando la salvazione, e se lui si era assoluto è uscita questa macchina e lui si è fermato perché io ho in mano una maglia col suo nome, dice: questo poveretto che sarà qua da ore, così. Poi quando mi ha riconosciuto non è finita benissimo, però. Però è la dimostrazione che è un ragazzo sensibile, che di fronte, sì, adesso, di fronte al tifoso, amico mio, amico mio, bravo, esatto, che c'ha la maglietta. Neanche più la maglietta, ciò che mi ha allenato da solo, quel capello. Il periodo di capello. Se mi fa, sai che faccio? Se domenica mi fa giocare, non gioco. Poi 2 minuti dopo diceva: ma oppure faccio una cosa, gioco e tiro dietro la gamba. Poi dopo 5 minuti fa: speriamo che gioco. Era stupendo. Perché c'era proprio la voglia, capito? La voglia, l'orgoglio del giocatore ferito, e dice: non gliela voglio dare vinta. E poi: ma speriamo che gioco. I tempi dell'imitazione a Tarragona, ancora se lo ricorda, al top. Partita col Nastic. Cioè, Patroclo ci chiede che fine ha fatto la fotografa di ieri. Qua, ragazzi, ci sono degli ormoni primaverili dell'aria. Patroclo, fatte una ragione, non lo sappiamo neanche noi. Amen. Ti vogliamo bene, però. Non conosciamo neanche il nome, peraltro. No, non lo conosciamo. È sparita così nel deserto. Però lanciamo questo appello a nome di Patroclo. No, ma che appello? Saluti alla fotografa. Baci. Convocati. Pierluigi Pardo qui con me in studio. Filippo Maria Ricci collegato per noi dalla Spagna. Web impazzito per la mano destra di Ronaldo sui gioielli di famiglia dopo la ammonizione nel classico. No, ma al di là di quello, web impazzito. Amo Cristiano Ronaldo. Amo, è proprio il mio animo. Rischia. Questa roba rischia una squalifica. brutta che non si capisce bene a chi è rivolto, al povero Matteo Laos o Matteo. Qualcun altro. Era sì, uno dei tanti strascichi del classico, questo è il più pecoreccio, mettiamola così. Sì, però rischia di diventare anche un danno, perché potrebbe essere qualificato. Ecco, in Spagna c'è un giro di vite mostruoso, non si può fare veramente ormai più nulla allo stadio, sono proibiti tutti i cori negativi, un po' stile inglese, hanno dato veramente un cambio radicale. Cercano il modello inglese per cui anche in curva non si può, cioè posti fare contro, ma sono arrivati a sanzionare il Cori su Ronaldo, che fino all'altro ieri erano assolutamente tollerati, adesso non si può più fare niente. Sta portando una certa creatività tra il pubblico, perché al Camp Nou volevano multarli perché cantavano Cristiano un ubriacone. Allora la partita dopo cosa hanno fatto? Cristiano non beve acqua, e quindi c'è questa anche c'era, spesso è così, no? Molti cori sono anche divertenti. È vero che qui adesso questo gesto di Ronaldo, addirittura a me non è un po' un'esagerazione, se la sono presa con lui per la maniera di festeggiare il gol al classico, lui ha solo fatto il gesto di no, tutti calmi. Poi si può stare se no si fa più niente, cioè secondo me è molto meglio quello di quelli che segnano e non esultano in una squadra in cui ha giocato sei partite. Per esempio a Messi e a Getafe gli cantavano paga le tasse e poi dicevano tutti siamo il tutto, anche gli cantavano, che non è divertente, si stimola la creatività, però che il giocatore adesso, uno come Ronaldo, non possa fare quel gesto di tutti calmi ma basta, fatto gol. Senti Pier, Simeone che inchiostra il contratto fino al 2020, dicono che in Italia voci che c'è stato fatto un ultimo tentativo da parte del Napoli e adesso ovviamente è il Ferguson d'Inghilterra. Di Spagna. No, ma devo dire che fa abbastanza ridere, perché c'erano appunto voci di segno completamente opposto, no? Cioè nei giorni scorsi, forse con la partita col Bayer Leverkusen vinta ai calci di rigore in qualche modo ha influito quantomeno sul clima, poi magari Filippo ce lo può confermare, nel senso che c'erano voci che parlavano appunto di un rinnovo alla Ferguson, che poi realmente c'è stato, o anche di un clamoroso ribaltone, perché forse l'Atletico Madrid, massimo vedere marzo di quest'anno rispetto al marzo dell'anno scorso, adesso è tornato a vincere e soprattutto andare avanti in Champions, ma insomma l'anno scorso, se non sbaglio, a marzo c'erano state le 6 vittorie consecutive, quest'anno il grande digiuno degli attaccanti, Mangio che c'è in difficoltà, la squadra un po' spompa e quindi poi insomma, come spesso nella vita, poi ci sono i momenti che in 90 minuti li cambiano tutto, anzi neanche in 90 minuti, in quella serie dei calci di rigore secondo me è cambiata la storia. Sì, ci sono due aspetti. Questo uno più sentimentale e pratico, però l'altro, l'aspetto più importante è quello economico, l'iniezione di cash da parte dei cinesi del gruppo Wanda. Certo. Cioè, questo gli ha fatto cambiare. Simone ci ha pensato un sacco, si era parlato anche di un sabbatico alla Guardiola, poi è l'Inter, è il City, no? Tante altre situazioni. Sicuramente aveva un sacco di offerte e probabilmente la cosa più facile da fare era andarsene via, perché poi in questo momento è il papa assoluto, e ha fatto vincere una Liga, una cosa mostruosa, contro squadre che hanno quasi 600 milioni di incassi ogni anno, lui riesce a vincere la Liga con l'Atletico, una squadra mediocre, quando l'ha presa lui era dodicesima, eliminata dall'Albacete in Coppa del Re, insomma l'ha trasformata. Era facile secondo me andare via, e invece ha fatto questa scelta perché l'ha fatto, secondo me lui davvero crede che con appunto l'arrivo di nuovi capitali l'Atletico potrà continuare ad essere competitivo. Infatti fa un po' ridere, no? Perché lui anche ieri diceva no, andiamo partito a partito, io penso solo al Cordoba, però intanto ha firmato per fino al 2020, 15 anni, no? Per cui lui ovviamente sa che il progetto c'è e si fida. Occhio, ovviamente la cosa più importante è che ogni fine anno le due parti si possono sedere al tavolo e salutarsi senza pagare tutto quello che manca nel contratto. Non è che lui ha firmato a 6 milioni l'anno e lo cacciano via nel 2015 e gli danno 30 milioni per le 5 stagioni che mancano. No, entrambe le parti possono liberarsi. Un contratto così lungo mi sembra quasi normale, no? Però sarebbe a me fa, io tifo per questo tipo di cose, perché intanto già Simone è l'allenatore che è, diciamo, più longevo delle 20 panchine di, no, della Liga, e ben vengano queste situazioni in cui un allenatore resta anche se le cose non vanno bene, perché secondo me il calcio gli fa bene. Cioè, pensa agli isterismi del Real Madrid o del Barcellona, dove Luis Enrique, che adesso è in corsa per il triplete, va benissimo, a gennaio doveva essere mandato via, e Ancelotti, che ha vinto il mondialito l'altro ieri e la decima 4 giorni fa, no, però adesso non va bene, lo vogliono cacciare. Cioè, ben venga, no, la stabilità dell'Atletico, sì, sì. Se riescono a mantenerla, ovviamente. Grazie Phil, ciao. Alla prossima. Ciao Filippo, facciamo in tempo Pierluigi a sentire Arrigo da Padova. Certo, se fosse stato Arrigo da Fusignano e no, avevo un sospetto, invece Arrigo da Padova. Vai Arrigo. Enrico da Padova. Ciao, Arrigo, scusami. Ciao a tutti, grazie della convocazione. Cerco di essere velocissimo riguardo il processo della Juve. Francamente devo dire che i problemi sono proprio a monte, nel senso che il primo processo in cui è stata condannata era veramente giuridicamente ridicolo. Io capisco che il processo sportivo deve essere molto veloce, però è stato talmente sbrigativo da essere secondo me ingiusto. Già il Guido Rossi, che era un dirigente dell'Inter, quindi è come se un tuo avversario all'interno, non so, del mondo aziendale decidesse delle sorti di un'azienda rivale, già questo è abbastanza strano, ridicolo e anche ingiusto secondo me. Dopo quello che si è visto nella Cassazione, nel processo ordinario, cioè tutte le intercettazioni che non sono state sbobinate, e poi anche il fatto che la prescrizione di cui adesso si dice di Moggi e di tutti gli altri, che in realtà è solo per che sono colpevoli solo perché è passato troppo tempo, anche l'Inter ha usufruito della prescrizione, in quanto tutte le sue intercettazioni, Facchetti e gli altri, non sono state utilizzate, in quanto i reati a livello sportivo sono stati prescritti. Queste erano le considerazioni, insomma, cioè, che volevo fare. Questo rimarrà sempre un punto onestamente irrisolto nella vicenda. Assolutamente, ma insomma qui l'invito è veramente andiamo avanti. Perché oggi se ne parla, secondo me, da un certo punto di vista, il fatto che sia arrivata questa sentenza lunedì notte in piena pausa da nazionali rende l'argomento ancora più interessante. Però, ancora più, cioè, ancora Giorgio più De Luca, che fai con quella mano? È finita, adesso ci abbiamo il GR e poi torniamo con tutti convocati dalle 15 in poi. Non si rendono conto che il tempo è finito, finisce qua primo tempo. Che privilegio partecipare alla trasmissione più cool in circolazione, grazie ragazzi. Tutti convocati voi 800240024 e convocati in studio Pardo oggi, che è qui con me. Eccolo qua, eccoci, tonico, ben messo in campo. E Piero da Genova. Titolare, col poco fra l'altro. Pronto? Prego. Dica. Dottor Genta, buongiorno. Io sono uno juventino, anche magari un po' pentito, però volevo soltanto che l'ultimo intervento è stato più o meno analogo al mio. In passato c'è sempre stata la divisione buoni e cattivi, no? L'Italia credeva di risolvere i problemi politici trovando come capo espiatorio Craxi e come il capo espiatorio sportivo Moggi e la Juve. Oggi i moralisti cosa ne pensano di tutto ciò? Che vedo che siamo caduti ancora più in basso, ma soprattutto la prescrizione, come non va bene adesso per Moggi, il signor Moratti, quel gran signore del signor Moratti, come mai non è voluto farsi giudicare, lui che aveva le mani pulite in tutto? Grazie, io tutto lì, il mio sfogo è tutto lì. Sì, è quello che pensano molti juventini. Cosa vuole che le dica? La registriamo lo sfogo. Prescrizioni, istituto aberrante, che tra l'altro sta per essere rivisto, c'è una legge in Parlamento. E qualcuno ha fatto anche il paragone politico calcistico, anche con le polemiche. Ho visto Di Pietro, per esempio, è intervenuto, no, proprio su questo elemento, cioè sul fatto che. Ma è un puro caso, insomma, si sta discutendo sull'allungamento dei tempi della prescrizione proprio nei giorni in cui è arrivata questa non sentenza, se mi passi l'espressione, o meglio questa sentenza di pura prescrizione. Ma tanto va avanti, perché la questione in sede civile, la storia dei risarcimenti non sarà qualcosa di banale. Semplice, certo. Allora, vi faccio sentire una cosa. Twenty 27 for Danilo Gallinari. Lawson to Gallinari. Danilo Gallinari. Gallinari is going to hoist up his 11th three-point attempt tonight. There he goes. He's going to shoot it again. Yep. Gallinari for three. His sixth three-pointer tonight. And he's got 40 in the game. I don't know. I don't want to. How about Spanish? En fuego. What is that? Fire is fuoco. Fuoco is the correct word for fire. But on fire, like you are on fire in a game, in ritmo. In ritmo. In ritmo. With you gotta roll the R. In ritmo. Yes. Oh, I can do it. There you go. Danilo Gallinari. In ritmo tonight, Chris. Ritmo. Fantastico, eh? Fantastico. Ha fatto rumore. In ritmo, sono si dice. Pezzi d'Italia che ci rendono orgogliosi. Insomma, siamo ai livelli del vino quasi, perché Gallinari è tanta roba. Insomma, Per fortuna è tornato ad esserlo. Simone Sandri, non da New York come d'abitudine, ma da Los Angeles, dalla città degli angeli, dove sta per arrivare De Luca, tra l'altro. Peraltro, ciao Simone. Buon pomeriggio. È lì a celebrare, ad accompagnare l'addio al basket di una superstar assoluta e di un suo grande amico personale come Steve Nash. Simone. Sì, esatto. È da tempo che ha deciso di ritirarsi, l'hanno annunciato la settimana scorsa con una lettera ai tifosi e ieri ha fatto questa conferenza stampa. Diciamo il suo ultimo giorno da giocatore NBA è stato ieri, quando ha fatto questa conferenza stampa di addio. Sì. E dopo 19 anni di basket NBA, per un giocatore che quando era ragazzo nessuno pensava neanche avesse l'opportunità di avere una borsa di studio al college, chiude la carriera con due MVP, ha flirtato con l'anello, non ha mai vinto, però ha rivoluzionato il ruolo ed è stato, credo che la storia lo ricorderà come uno dei più grandi playmaker di sempre. Beh, su questo non c'è dubbio. Intanto sai Pierluigi che ha postato una foto Simone Sandri, sì, su Facebook, in cui c'era scritto il miglior modo di festeggiare, di celebrare l'addio al calcio di Steve Nash, partita di calcio al basket, sì. Partita di calcio a Venice Beach, a due passi dal mare, con partecipanti illustri. La foto, Simone Sandri, Nash, Del Piero e l'altro non ho riconosciuto, ti dico la verità. Chi era? L'altro è Kyle, è un grandissimo talento del calcio americano, Kyle Martino, che ha appena smesso. Ma tu chiamaci, quando c'hai, se ti serve, se ti serve il quinto e il sesto, chiamaci, che noi ci mettiamo lì. Vedi, l'altro non l'ho riconosciuto perché il calcio americano ancora non abbiamo approfondito la conoscenza. Però ieri Pierluigi diceva una cosa, ci sono le strutture, ci sono i soldi, ci sono tutte le componenti per fare bene, ma la tradizione non si compra, no Pier? Sì, beh, a livello di calcio assolutamente no, era riferito al discorso di Andrea D'Amico, che giustamente un po' perché ha vissuto l'esperienza di portare Giovinco e poi ovviamente è gasato, Giovinco ha preso un grande ingaggio, è stato bravo anche D'Amico, ma insomma sicuramente quello è un mondo che sta crescendo dal punto di vista calcistico e dal punto di vista delle strutture, è potenzialmente, potrebbe addirittura superarci. Io credo però che la tradizione non la puoi superare, la tradizione è qualcosa che ti porti dietro e quindi da questo punto di vista penso che sarà dura per il calcio americano riuscire a risalire così rapidamente. Sì. Io penso che fra 30 anni ci sarà ancora la Champions League, penso che fra 30 anni ci sarà ancora il Real Madrid, ci sarà ancora il Manchester United. Sì. E con tutto il rispetto per Montreal o per tutta la MLS in genere. Cosa ne pensi vista da dentro, Simone? Vista da dentro? Sono d'accordo e fino a un certo punto anche, insomma, ha perfettamente ragione per Luigi, perché è ovvio, la tradizione non si compra, l'amore nei confronti di uno sport che comunque non è uno sport, un national pastime americano non può sbocciare così. Detto questo, non credo che sia quello l'obiettivo della MLS, non credo che sia quello di diventare una lega o diventare il un po'. A fare la lotta né con la NBA e né anche con la Premiership, con la Liga o con la Serie A. Il concetto è creare una nicchia di importante, uno zoccolo duro in un panorama di sport americani che non è semplice, perché comunque anche l'hockey, che è uno sport di grandissima tradizione invece negli Stati Uniti, deve sgomitare comunque attraverso i suoi spazi televisivi per comunque riuscire a portare un prodotto che sia appetibile. Secondo me un po' l'obiettivo del calcio deve essere questo, quello di creare una nicchia importante negli Stati Uniti, e devo dire la verità, ci sta riuscendo, perché siamo alla 20ª stagione di MLS ed è cambiato radicalmente il modo anche di intendere calcio negli Stati Uniti negli ultimi 10 anni. Ormai tutte le squadre hanno lo stadio di proprietà, c'è veramente la fila per portare franchigie, per avere franchigie nell'MLS, fanno la lotta a diverse città per avere l'opportunità di avere franchigie nell'MLS. La media tifosi è una media tifosi da Serie A. Sì, sì, assolutamente. Forse anche di più. Diciamo la Serie A di qualche anno fa. Sì, nel senso, Seattle fa 44.000 spettatori di media e in Italia la squadra che fanno 44.000 spettatori di media a trovarle. Credo nessuno. La Juve no, non lo può fare perché c'è 40.000 posti di stadio, ecco, però la Juve è l'unica che si avvicina, credo, no? Ma assolutamente no, era soltanto sul discorso che faceva Andrea ieri a proposito del fatto che ci potrà essere il sorpasso, che possa essere quello il calcio del futuro. In realtà poi è la dimostrazione che, no, come tutte le cose della vita, search and reapply, dicono gli inglesi, no? Cioè ricerca i modelli in giro per il mondo e riapplicali al tuo sistema e al tuo business. In questo caso io credo che su molte cose dovremmo imparare, sui meccanismi di coinvolgimento del pubblico dovremmo imparare, sugli stati di società, ma insomma ci sono modelli anche molto più vicini, basti andare in Inghilterra per trovarli, quindi insomma, però la testimonianza è interessante, perché sicuramente quello è un mercato, era un mercato potenzialmente forte, oltretutto in un paese come ci ricordavi, che ovviamente ha altri passatempi, perché insomma c'è il baseball di tutto, poi c'è il basket, poi c'è il football americano, poi c'è l'hockey, e non è facile da quinto sport riuscire a ritagliarsi comunque una nicchia così importante, e ci stanno riuscendo. Simone, per chiudere, arriva dalle nostre parti una superstar o ex superstar, però comunque un giocatore molto noto dopo tanti anni, a Cantù, Matt World Peace o Ron Artest o come si fa a chiamare adesso? Panda's Friend fa ridere. Panda's Friend è una macchina. Meraviglioso, l'amico panda. Dei panda. Numero uno. Simone, è stato lì è stato qualcosa di grande, di importante, di molto controverso. Adesso, dopo la Cina, arriva qua, si tratta di capire a fare che cosa. Sì, infatti parlavamo proprio ieri con Steve Nash, che è stato compagno di Metta a Los Angeles, su cosa ci si può aspettare da Metta a Cantù, e Steve diceva sicuramente non saranno noiose le partite e neanche i post partita di Cantù, per cui questo è già una prima cosa interessante, che sicuramente non ci si annoierà con Metta. Poi quello che potrà dare sul campo è un punto di domanda, perché comunque credo che sia abbastanza la frutta, per cui bisognerà vedere quello che fisicamente può dare. Diciamo le cose come stanno, abbastanza la frutta. Diciamo le cose come stanno, ma è anche vero che è un personaggio straripante ed è un giocatore veramente che non si risparmierà, per cui sarà interessantissimo vederlo, e io sono veramente curioso di vedere come si adatterà un po' allo stile di vita italiano, al basket, ma anche allo stile di vita. I precedenti italiano. Quali sono? Cooper, Richardson? Cooper Richardson, McAdoo, c'è Joe Barry Carroll, ce ne sono diverse dei superstar, ma erano altri tempi, un altro basket, vale imparare il discorso fatto per il pallone. Ed altro superstar con un altro atteggiamento nei confronti, diciamo, della vita, tra virgolette, rispetto a Meta World Peace. Sì, poi metti questo, da Los Angeles, Cina, eccetera, arriva a Cantù. Arriva a Cantù e da lì comincia un'altra storia. Grazie Simone. Grazie a voi. Ciao Simone. Mario Chieti, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ascolti, io volevo parlare per quanto riguarda la prescrizione del Moggi e compagnia. Sì, un tema nuovo, allora, che non appassiona nessuno. Prego, stavo scherzando. No, il discorso è questo, cioè o si fanno le cose come si devono fare, oppure in tutti questi anni, con le penalizzazioni, con le multe, con mettiamoci anche i costi di questi processi, cioè è stata una bufala a questo punto, cioè bisogna ricominciare tutto da capo, è vero, non è vero, cioè per quale motivo si è dovuto aspettare la prescrizione di questo processo in quanto ci sono delle colpe, così mi pare di capire, o no? Ma questo è il problema della giustizia, io non credo francamente che la prescrizione sia scattata per un complotto, cioè mi sembra veramente, non c'è nessun motivo per pensare, è la triste situazione di tanti processi nel nostro paese. Che... Certo, 9 anni per avere una sentenza in cui ti dicono vabbè, si è prescritto, l'abbiamo fatto in tempo a fare le cose. Fa ridere, o forse fa piangere di più, no? Ma questo è un discorso, proprio lo snellimento della macchina della giustizia è un tema nettamente più importante, con tutto